Allora, iniziamo questa immersione nel pensiero di Marco Guastavigna, una figura intellettuale italiana, direi, complessa. Sì, si muove tra pedagogia, tecnologia didattica e critica sociale. Esatto. Le fonti che abbiamo consultato, beh, ne tracciano un profilo molto dettagliato, vero? Partiamo dalla formazione. Laurea in lettere a Torino, 1975, con lode e dignità di stampa. Una base umanistica solida. E poi la svolta tecnologica, diciamo. Sì, nel 95 si specializza sull'uso didattico del computer, ma l'interesse c'era già dagli anni 80 con l'impegno nel CIDI, il Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti. Bene, la nostra missione qui è cercare di capire il nucleo del suo pensiero. È stato definito una voce inopportuna. Perché? Emerge chiaro dalle fonti. Lui è un ex docente, un formatore, che ha sviluppato una forte, direi quasi uno scetticismo critico, verso come la tecnologia viene usata nell'istruzione. Ok, proviamo a entrare nel vivo. Una delle critiche più forti riguarda la standardizzazione, giusto? Anche quando si promette personalizzazione. Proprio così. Pensa al registro elettronico. Ah, classico esempio. Esatto. Guastavigna dice: questi strumenti, raccogliendo dati in modo sistematico, invece di aiutare, finiscono per erodere l'autonomia professionale del docente. In che senso erodere l'autonomia? Nel senso che rischiano di trasformare l'insegnante in un esecutore di procedure standardizzate, capisci? Il contrario della personalizzazione, in pratica. Un paradosso. Sì, chiarissimo. E poi c'è il suo lavoro sulle mappe concettuali, molto importante per lui, mi sembra. Non sono solo disegnini, eh. Assolutamente no. Per Guastavigna, e qui cita Ausubel, Novak, sono strumenti epistemologici potenti. Epistemologici, quindi legati proprio al modo di costruire la conoscenza? Esatto, ti costringono a far emergere i significati insiti nei materiali, a riflettere sulle relazioni tra i concetti. È l'opposto della memorizzazione meccanica, capisci? E contrasta l'uso superficiale della tecnologia. Ci sono sue pubblicazioni importanti su questo, tipo Non solo concettuali. E questa critica poi si allarga dal registro elettronico, dalle mappe, arriva alla società intera, all'istruzione in generale. Usa un termine forte, colonizzazione operata dal capitalismo di piattaforma. Sì, è un'espressione sua, molto diretta. Cosa intende, praticamente? Beh, denuncia l'influenza crescente delle grandi corporation digitali, le piattaforme, appunto, sulle pratiche, sugli obiettivi della scuola. Quindi un'ingerenza esterna? Secondo la sua analisi, sì, che spinge la scuola verso logiche di mercato, di competizione. Pensa ai bandi, alle certificazioni private che contano sempre di più. Capisco. E dice che la pandemia con la DAD ha, diciamo, consolidato questa tendenza. Le fonti definiscono la sua posizione politica radicale, basata su una critica al modello capitalistico. Noi lo riportiamo come dato dalle fonti, ovviamente. Certo. E arrivando a temi più recenti, intelligenza artificiale. Immagino un approccio simile, cauto, forse scettico. Direi critico più che scettico. Anzi, lui mette in discussione proprio la parola intelligenza. Ah, interessante. Sì, preferisce parlare di agentività disumana, ossia statisticamente probabilistica. Fa una distinzione che ritiene cruciale Ovvero? tra un'IA estrattiva, quella che serve alle piattaforme per fare profitto, e un'ipotetica IA conviviale. Conviviale, cioè? Cioè, un'IA pensata per l'empowerment delle persone, per un uso etico. Sostiene che serve un nuovo lessico per parlarne, per andare oltre la fascinazione da un lato e la paura dall'altro. E tutto questo ci riporta alla sua autodefinizione. Ricercatore inopportuno e libero dall'opportunismo. Sembra quasi la chiave di tutto, no? Penso di sì. È una rivendicazione di indipendenza intellettuale. Dice che questa posizione gli permette di sfidare le narrazioni dominanti, quelle che presentano la tecnologia sempre e solo come progresso positivo, senza filtri. E c'è coerenza con la sua filosofia educativa. Assolutamente. Condivisione della conoscenza, sviluppo del pensiero critico collettivo. Il suo sito noiosito.it è un esempio. In che modo? È fatto apposta senza tracciamenti, senza pubblicità. Incarna la sua idea di resistere a un certo uso della tecnologia, quello che limita la libertà, per provare a riappropriarsene come strumento di crescita. Quindi, tirando un po' le somme, il ritratto che emerge è quello di un intellettuale. Sì, coerente. la cui critica non è mai fine a se stessa. No, punta a promuovere un uso consapevole, etico, umano della tecnologia, specialmente in educazione. Un riferimento importante, mi pare, per chi lavora nella scuola oggi e si confronta con la digitalizzazione. Sì, per navigarla con spirito critico, senza cadere nella tecnofobia, certo, ma neanche nell'entusiasmo acritico o accettando passivamente le logiche di mercato che lui denuncia. E allora, forse, una riflessione finale che ci lasciano queste fonti. Se l'innovazione non sta tanto negli strumenti, ma in come li usiamo, quale piccola inopportunità, magari, si potrebbe introdurre nel proprio quotidiano per mettere in discussione le procedure standardizzate, quelle che la tecnologia a volte ci impone, e favorire invece un uso più riflessivo, più intenzionale?